Io sono Simone Ortolani e tu stai ascoltando Runtime Radio. Un uomo stanco parla piano, con delusione dentro il cuore. Le notizie scorrono e fa male, rabbia cresce senza rumore. Ma il giovane racconta col tremore, la giornata piena di orrore. Sogna segretamente di un bagliore, un asteroide cade dallo spessore. Aspetto l'asteroide che distrugga tutto, aspetto l'asteroide che porti via questo brutto. Anche tu stai aspettando l'asteroide che distrugga tutto? Beh, mentre resti paziente in attesa, sintonizzati il lunedì, il martedì, il mercoledì e il giovedì alle ore 20 su runtimeradio.it. Walter Sbano ti attende con Le orazioni della sera. Fuoco eterno, una danza, un modo per trovare pace. Aspetto l'asteroide che distrugga tutto. Aspetto l'asteroide che porti via questo. Ogni venerdì mattina svegliarsi con un sorriso, è tempo di scoprire nuove idee con Simone Pizzi. Il grande reset, un dialogo sincero per costruire insieme un futuro più vero. Unirsi per il cambiamento, lottare per un mondo migliore, ascoltare e confrontarsi con mente aperta e cuore. Runtime Radio, la voce del progresso. Simone Pizzi ti aspetta per un nuovo inizio. Ah, belli de casa, bentornati a questo nuovo appuntamento con il Grande Reset. Aspettate che mi sistemo il microfono perché ce l'avevo circa 6, 7, 8, 9, 9, 15, 27, 99 di distanza. E belli de casa, benvenuti a questa nuova puntata del Grande Reset, come tutti venerdì mattina alle ore 7 qui su roundtimeradio.it, con questa trasmissione che vorrebbe portare un po' di buon umore, ottimismo e soprattutto parlare, insomma, di come l'uomo può progredire verso una nuova era e andare a viaggiare tra le stelle. Ma non è il caso di oggi, dove ci incazzeremo un pochino, perlomeno, insomma, beh, in realtà non c'è niente di cui incazzarsi che non facciamo già quotidianamente, però diciamo esporrò delle teorie, ecco, chiamiamole così, poi ovviamente senza voler essere preso estremamente sul serio vorrei dire delle cose comunque che ci tengo. Poi questa puntata fa splittare alla settimana dopo una puntata che invece era quella stata programmata, Guardo il mondo da uno blog, che comunque in qualche maniera è comunque connesso, no? Perché chi guarda il mondo dall'oblò spesso e volentieri è anche quello che fa il tifoso della guerra, no? Quello che si mettono sul divano tutti là, guerra, guerra, perché tanto pensano che questa cosa in qualche modo non li tocchi, no? Che esiste questo distacco tra la realtà e la vita che loro vivono attraverso il loro smartphone oppure il loro computer. E però purtroppo poi in realtà si accorgeranno un giorno che questa differenza è tutta nella loro testa e che quindi comunque tutto ciò che succede nel mondo in qualche maniera ci coinvolge a vari gradi, cioè quasi niente, un pochino sì, ma facciamo finta di niente, abbastanza, tipo insomma anche recessioni, austerity e cose che comunque in qualche maniera ci colpiranno in questo, in questa fase storica, ed è solo potenzialmente l'inizio. Però prima di tutto questo, dato che insomma sapete, se avete seguito i social, le notizie, o se avete seguito ovviamente la reazione della sera di Walter Spano, che vi ricordo il lunedì, il martedì, mercoledì e giovedì alle ore 20 su antemradio.it, sapete insomma che abbiamo avuto un coccodrillo, diciamo, questa settimana. Ma noi ne parleremo domani mattina, perché ci teniamo a dire che domani mattina alle ore 8.30, sempre qui su antemradio.it, io e Michela torniamo con Disordinati Informati. Ho visto che alcuni hanno accolto anche con contentezza questa cosa. Evidentemente è un programma che piace questa cosa che facciamo oramai da tre anni, forse, con Michela. E forse anche lo stile, no? È il modo in cui lo facciamo, anche se parliamo di cose serie, ma a volte molto più di cose leggere. Lo facciamo insomma con lo spirito di farci compagnia, diciamo, il sabato mattina o la domenica mattina. Però ufficialmente dovrebbe essere il sabato mattina, però poi dipende dagli impegni che c'ha Michela con i cani, i gatti, i sorci e bisce varie, insomma, che ovviamente gestisce nell'ambito delle sue attività animalesche. E è uscito invece questa mattina Snap Architettura Imperfetta, ma la grande notizia che tutti aspettavano, scrivevano in privato: ma quando esce, quando torna? E quindi ieri è uscita la prima puntata della nona stagione di Data Nightmare, puntata subito cioè c'è una continuity in realtà, a volte sembra un po' come le canzoni di Amedeo Minghi, no? Cioè nel senso, cioè, ma non è la canzone di prima, no? Ma in realtà ci saranno grandi spunti, e c'è anche un'iniziativa che stiamo lavorando, diciamo, ma già ve ne avevo parlato, solo che la stiamo un po' ridefinendo, perché è un po' il modo in cui faremo questa iniziativa che purtroppo è l'elemento di maggiore discussione. Però detto questo, intanto in questo episodio ascolteremo tre canzoni fatte con l'intelligenza artificiale nostre, per diverse ragioni. Una, perché la canzone che state per ascoltare potrebbe essere la sigla di tantissimi programmi di Runtime Radio da sola, e l'ha fatta ovviamente il buon Gualdi, il nostro amico Gioconno, e che comunque introduce un pochino anche il discorso, e le altre pure, e poi perché comunque questa cosa mi esime, insomma, diciamo, più o meno dal fare dell'edit alla fine, è più così pubblico senza troppi problemi. Quindi iniziamo. Lo sai che credo che per sbaglio so finito dentro una storia di un mondo che è impazzito, un brutto film che pare una caricatura con truffatore che te dà la fregatura dura. C'è star ministro che se batte la rivista, che poi fa i soldi se rilascia l'intervista, con gli infermieri presi a calci e a cazzotti, poi barricati ad aspettare i poliziotti. E per non far censura sta canzone, a te che ascolti chiedo un gran favore. Amico mio, te sei grande e grosso, bestemmia per me perché io sai non posso. Il ragazzetto che per noia t'accoltella, te non c'hai colpa, è che eri troppo bella. E c'è sta pure chi si infogna coi pandori, prima si manta, poi arrivano i dolori. La quota nera m'ha proprio nauseato, ma solo quella che c'ha il braccio destro alzato. E c'è sta gente che gli prudono le nocche, fanno i gandoni nei video su TikTok. E te non fa censura sta canzone, a te che ascolti chiedo un gran favore. Amico mio, te sei grande e grosso, bestemmia per me perché io sai non posso. La situazione qua è proprio desolante, io sto al disagio se parlo con la gente. Ma quello matto me sa, so proprio io. Sto zitto ad ascoltare e non grido porco. E per non far censura sta canzone, a te che ascolti chiedo un gran favore. Amico mio, te sei grande e grosso, bestemmia per me perché io sai non posso. Allora, che dire di questa canzone, oltre al fatto che comunque Marco l'ha costruita molto bene e che c'è qualche problema con il compressore stamattina, che spero nel prossimo brano di riuscire a risolverlo. E che suono è arrivato a livelli incredibili, e c'è la qualità anche degli assoli, delle cose veramente. E comunque questa canzone è pensata veramente molto bene, mi sono divertito tantissimo quando Marco me l'ha guardata, cioè me l'ha mandata, scusate, poi l'ho mandata subito a Walter, gli ho detto a Walter questa la devi passare, lui l'ha passata ovviamente sulla lezione della sera, ma in realtà è il brano della settimana che insomma ogni ora praticamente suona sul Runtime Radio, poi la prossima settimana ce ne saranno altri. E detto questo, allora, e parliamo oggi si parla dei complotti, si parla complottismo, insomma oggi mi metto il cappello del complottista, quello che tutti scherniamo, insomma prendiamo in giro, che mettiamo gli uno con la scritta e poi ovviamente i punti esclamativi, chi ti paga, queste cose qua, perché poi il problema dei complotti, la cosa che degrada proprio il senso, anche il valore, insomma, di alcune ipotesi, no? Delle cospirazioni globali, del complottismo, è proprio il complottista, cioè quello che ovviamente ignorante legge due cose di qua, vede la puntata di X-Files, vede la puntata di Fringe, vede che ne so, una puntata di Voyager, e ecco là che si è fatto nella sua testa incredibile tutta una serie di cose, insomma, che esplodono in follie. Poi insomma abbiamo seguito anche su Telegram alcuni gruppi di questi qua complottisti, e cioè questi sparano e scagazzano praticamente post 3-4 post al giorno, quindi insomma vedete tutte queste iper cospirazioni, no? Cioè più l'impegno a pensarle e a metterle in pratica che insomma al fatto che siano possibili, realistiche, diciamo, da un certo punto di vista. Però cioè, ciò non toglie che non è che non siano mai esistite cospirazioni o complotti a livello locale, ma in piccole realtà o in realtà più grandi o realtà anche ancora più grandi, fino a ovviamente a visioni globalizzanti rispetto a quello che è un potere che oggi non possiamo negare abbia delle intenzioni o comunque degli interessi rispetto a quello che sta succedendo oggi nel mondo. E io già ne ho parlato nelle stagioni scorse, il futuro è aggregazione, in generale è così, cioè nel senso maggiore è l'accorpamento e l'aggregazione sotto dei principi che possono essere più o meno comuni o comunque a largo campo, e maggiore è ovviamente la possibilità di progresso, perché lo stare insieme non significa solo essere di più, ma significa anche avere più risorse e più possibilità di indirizzare verso sviluppo, ricerca, medicina, assistenza, quello che è ovviamente un progetto che è aggregante e globalizzante da un certo punto di vista, magari nel senso più positivo del termine, guardando ovviamente anche a quelle che sono le realtà distanti o differenti rispetto a quelle che sono le nostre impostazioni, no? E qui ritorniamo a quello che poi alla fine è stato un po' il nostro vanto per 30 anni forse, perché quando l'Unione Europea ha iniziato a prendere corpo, quindi ad aggregarsi in maniera anche più strutturata, più politica da un certo punto di vista, anche se poi questo balzo politico reale forse non è mai stato fatto, e questo ovviamente dà all'Europa un indirizzo generale, o ha dato all'Europa un indirizzo generale, ma allo stesso tempo con variazioni semestrali a secondo di chi era la nazione che in quel momento ovviamente gestiva la Commissione Europea. Però a parte questo, vabbè, le cose sono cambiate e via dicendo, comunque l'Europa era riuscita a creare il presupposto per questa grossa aggregazione, che non soltanto accorpava delle realtà che storicamente sono delle realtà differenti e che non nascono come gli Stati Uniti tramite aggregazioni forzate e la violenza. Insomma, guardatevi il film Nascita di una Nazione e capite un po' il senso di quello che sto dicendo, ma comunque molto più lentamente, lavorando sulle differenze culturali, comunque l'Europa è riuscita a costruire questa aggregazione che aveva un suo presupposto e anche una sua come posso dire potenzialità, ecco. Tant'è che molte delle realtà extraoccidentali all'Oriente o magari all'Africa comunque guardavano all'Europa come una sorta di punto di riferimento con il quale poter interagire e interlacciare ovviamente delle relazioni che potessero essere politiche ed economiche alternativamente a quello che era l'ordine precostituito, diciamo così. Quindi alla fine, quando io penso a tutto quello che sta succedendo nel mondo, che ha un obiettivo superiore secondo me, ma questo poi è una cosa che diciamo dopo, il primo obiettivo di un mondo che ha un solo asse, che comunque è governato dagli americani e dagli ebrei, la prima cosa che chiaramente salta all'occhio è il tentativo di distruggere un'aggregazione tanto alternativa quanto potenzialmente pericolosa, soprattutto in un periodo in cui c'è una crisi politica, sociale ed economica talmente grave che probabilmente non ha confronto con le crisi che gli Stati Uniti hanno dovuto affrontare precedentemente. Poi gli Stati Uniti sono intervenuti su mille cazzi a livello globale, di cui l'80% sono discutibili, hanno foraggiato regimi militari, hanno sostenuto guerriglie di ogni genere a seconda degli interessi e degli equilibri geopolitici che facevano interesse a loro, ovviamente. Poi per un periodo di tempo, al di là delle cose più storiche che conosciamo, tipo Afghanistan e Iran, diciamo che si era creato una sorta di chiamiamola così, una sorta di livellamento, di pacificazione a livello più globale. E questo cosa ha creato? Se non ovviamente un intreccio di partnership alternative che hanno portato ovviamente nazioni che una volta erano tagliate fuori da un certo tipo di discorso ad essere parte integranti, se non addirittura il fulcro di questa nuova visione, no? Negli anni 2000, noi ricordiamo che dagli anni 2000 in poi, anche negli anni 90 in poi, soprattutto quando è caduto il comunismo, diciamo tutto il blocco sovietico, diciamo ci siamo resi conto che esisteva un altro mercato, no? Cioè, e tutto questo alla fine fino a un certo punto ci ha fatto comodo, no? Come ci ha fatto comodo aver scoperto che la Cina non era soltanto un paese fabbricante di tecnologia, ma che era anche un paese che a un certo punto è entrato nell'economia di mercato con le loro logiche comuniste, come volete voi. Però comunque alla fine tutto questo ha creato un intreccio. Poi io seguo molto determinate cose, quando io vedo, che ne so, il ragazzo cinese che però vive in Cina e ti racconta di quali sono i prodotti, gli accordi commerciali che esistono con l'Italia, perché certi prodotti arriveranno o non arriveranno mai, ti rendi conto che al di là del discorso dei dazi e delle dogane che appartengono a un passato medievale, io sarei dire, ma anche lì c'è un interesse politico, ti rendi conto insomma che c'è stato un momento in cui il mondo era cambiato. E quindi se l'Europa aveva creato di per sé una sua aggregazione, c'era una visione anche ancora più globalizzante da un certo punto di vista. E questo ovviamente non va bene. Non va bene per chi vuole controllare il mondo con la prepotenza, con la propria impostazione, che non è solo ideologica e culturale, ma è anche militare e economica. Perché chiaramente quando gli Stati Uniti hanno cominciato ad essere in difficoltà, profonda difficoltà, anche nei confronti di questi soggetti, ecco che invece di accettare, risanare o ricostruire, ovviamente si è creato un discorso di conflitti, tra virgolette, a livello più generale. E mentre una volta magari si utilizzava il pretesto stupido dell'esportazione della democrazia, oggi noi non abbiamo più neanche bisogno di questi pretesti. Creiamo delle situazioni che poi alla fine portano alla necessità di costruire un conflitto. E quello dell'Ucraina e della Russia è un po' un emblema di questa cosa, perché se la Russia è un paese aggressore nei confronti dell'Ucraina, è vero pure che la NATO e comunque in generale l'Europa in questo caso, perché ecco perché poi ritorno all'Europa, perché poi comunque l'Europa si è fatta mettere in mezzo in questa situazione e alla fine difficilmente riesce ad uscirne fuori, anzi continua a fare cose che potrebbe anche benissimo non fare, che sono sconsigliate da tutti quanti gli analisti e tutti i tecnici che in qualche maniera dicono: no ragazzi, non proseguiamo per questa strada, perché oramai c'è una ragione politica, no? Cioè si è creato comunque un incastro, però poi a questo appunto ci arriviamo anche dopo. Però la cosa che mi ha fatto veramente impressione in queste settimane, in questi mesi in cui ho letto tanto, forse anche troppo, è il fatto che se una volta l'Europa era diventata un punto di riferimento anche a livello orientale e anche a livello del sud del mondo, insomma, quindi tutta quella parte che poteva potenzialmente rivolgersi all'Europa, costruendo ulteriore vantaggio dal punto di vista delle risorse, le possibilità, oggi guardano altrove per ragioni diverse, per ragioni di investimenti, per ragioni di pseudocolonizzazione, quello che volete, no? Perché se l'Africa adesso è spartita praticamente tra Russia e Cina, vediamo anche i paesi orientali che una volta cominciavano a guardare magari verso l'Europa, adesso riguardano verso la Cina. I paesi medio orientali, quindi i paesi arabi, a parte l'Arabia Saudita, cioè tutti quei paesi dittatoriali che non rispettano i diritti delle donne, delle persone, che però quelli vanno bene, a parte loro, insomma, tutta quella parte del Medio Oriente che comunque vedeva con fiducia nei rapporti che c'erano con l'Europa, e c'erano anche delle ragioni storiche importanti, oggi ovviamente tutto questo è crollato in virtù di un ritorno ad una spaccatura globale tra Occidente e Oriente, quindi tra Occidente e il resto del mondo, perché questa è la nostra visione. Siamo riusciti a farci inculcare anche questa visione degli americani, no? Che c'è l'Occidente e poi c'è il resto del mondo. E questa spaccatura ovviamente ha creato un'ulteriore frattura tra civiltà. Quello che lentamente, piano piano, magari si stava risanando per certi versi, oggi è tornato ad essere un punto abbastanza drammatico di questa situazione, dove siamo arrivati a una situazione di stallo che forse tanto stallo nemmeno è. Ascolta bene, questo non è un gioco, l'Occidente brucia il mondo, ma dice che è solo un folle. Venta, si nasconde dietro maschere di progresso, ma oggi la svelo io in questo flusso incessante. Occhi chiusi, menti chiuse, verità confuse, l'Occidente impone, le altre culture sono deluse. Cristo biondo, occhi azzurri, la buccia dipinta, ma se un nero è su Netflix, la nostra razza è estinta. Ipocrisia che scorre nelle vene della storia, colonizziamo menti, lo chiamiamo memoria. Universalismo occidentale, una visione suprema, nazismo leggero, democrazia è solo un emblema. Censuriamo il diverso, imponiamo il nostro credo, il silenzio è complice, nel sangue ci si siede. Martiri supremi, piangiamo le nostre vittime, ma i genocidi nel mondo, quelle sono statistiche. Rappresaglia o sterminio, un dibattito ridicolo, mentre la Palestina muore, parliamo d'articoli. Bombardiamo per la pace, uccidiamo per la vita, la nostra logica è malata, la morale è già finita. universalismo occidentale, una visione suprema, nazismo leggero, democrazia è solo un emblema. Censuriamo il diverso, imponiamo il nostro credo, il silenzio è complice, nel sangue ci si siede, ci si siede, ci si siede, ci si siede. Giornalisti prezzolati, artisti che tacciono, la giustizia è affamata, ma le porte si chiudono, il mondo muore in silenzio, un nuovo peccato originale, seminiamo odio e morte, il futuro è un funerale. L'arte è prostituita, venduta al miglior offerente, chi parla viene zittito, chi tace è un vincente. Ma fino a quando? Fino a quando durerà questo sistema marcio? Prima o poi crollerà, le voci si alzeranno, da est ove sud e nord contro l'universalismo, questo falso dio d'oro, neocolonialismo mascherato dagli UDI. Rubiamo risorse, lasciamo popoli muti, parliamo di diritti umani ma li calpestiamo, vendiamo armi editte a noi, poi ci meravigliamo quando il terrore colpisce le nostre città, dimentichiamo in fretta la nostra complicità. Universalismo occidentale, una visione suprema, nazismo leggero, democrazia è solo un emblema. Censuriamo il diverso, imponiamo il nostro credo, il silenzio è complice, nel sangue ci si siede, ci si siede, ci si siede, ci si siede. L'informazione è controllata, la verità è piegata, la storia è riscritta, la memoria è cancellata. Celebriamo eroi di guerra, criminali decorati, mentre i veri pacifisti vengono dimenticati. Il pensiero unico domina, non c'è spazio per il dubbio. Chi si oppone un nemico da eliminare in un subito, i popoli uniti subito. Ipocrisia occidentale, una maschera di civiltà, di erosi c'era il vuoto, una falsa umanità. Il nostro silenzio uccide più di mille bombe, l'universalismo occidentale scava le nostre tombe. Ma la resistenza cresce, le voci si moltiplicano, il vento del cambiamento finalmente si avvicina. È tempo di svegliarsi, di rompere le catene, l'universalismo cadrà e con lui le nostre pene. E vabbè, quindi l'universalismo occidentale, che oramai è diventato la mia, il mio discorso, cioè il mio presupposto ideologico, l'anti-universalismo occidentale, questa visione che abbiamo noi in Occidente, che abbiamo costruito grazie ovviamente sempre a questa filosofia USA, dove loro sono il centro del mondo e tutto il resto è una provincia, ci porta ovviamente a vedere quello che è il nostro mondo come la realtà giusta e perfetta, e tutto il resto un qualcosa da omologare all'interno del nostro contesto. Poi lasciamo perdere i discorsi di razzismo e cose del genere, che poi ne parleremo appunto in una puntata dell'Oblò, che vabbè, meritano una determinata considerazione. Però dice, vabbè, ma perché tu, cioè, in realtà quello che sta succedendo non è nient'altro che l'effetto di un'azione geopolitica militare, che comunque fa parte del normale andamento delle cose all'interno di quella che è la storia dell'umanità. Scusate. Sì, però la differenza rispetto al passato è ovviamente la tecnologia, come abbiamo detto in tantissime altre situazioni. Quindi praticamente tutto quell'aspetto di comunicazione che costruisce più efficacemente, più velocemente una propaganda talmente potente, talmente efficace da diventare la realtà. E questa unificazione globale del pensiero, questa assenza del dissenso e del dibattito all'interno dell'informazione o della politica in generale, ci dimostra non soltanto che la democrazia di per sé non esiste più, ma questo lo diciamo già da un po' di tempo, ma che ovviamente questo monotreno che va verso una sola ed esclusiva direzione è il frutto ovviamente di un lavoro, di una costruzione. Perché, e ci riflettevo ieri, perché poi ne ha parlato un po' Walter anche, io pure avevo letto delle cose, però in generale se tu non vai a cercare determinate notizie, ieri dai giornali italiani, al di là del dramma De Rossi esonerato dalla Roma, noi non lo sapevamo o non ci siamo resi conto, non abbiamo avuto gli strumenti per sapere che ieri il Parlamento europeo ha votato una risoluzione non vincolante, fa ridere sta cosa, no? Una risoluzione non vincolante a favore dell'Ucraina per la totale cancellazione delle limitazioni dell'uso delle armi nei confronti della Russia, che è di per sé, voglio dire, un appoggio effettivo, ufficiale, e quindi un coinvolgimento, perché come dice giustamente Putin, tu diventi un co-belligerante all'interno di questa questione. Quindi per me a quel punto sei un nemico. Se prima eri la rappresentazione diciamo di un blocco antagonista a me, ma che comunque manteneva tra virgolette una certa neutralità, nonostante comunque sostenere l'Ucraina con aiuti, con armi e via dicendo. A questo punto, se tu dai gli strumenti all'Ucraina di attaccare in profondità il territorio russo, per me tu comunque sei coinvolto all'interno di questa guerra, no? Ma tu lo eri coinvolto anche prima, cioè non è che questa cosa cambia assolutamente. E tutto questo ovviamente per volere di due nazioni in particolare, che sono gli Stati Uniti e l'Unione e il Regno Unito. Gli Stati Uniti, che sono gli Stati Uniti, e lo sappiamo, no? Che nonostante Biden aver ricevuto anche, insomma, da notizie New York Post, notizie cioè a sfavore dell'abbattimento delle limitazioni dell'uso delle armi in Ucraina per due ragioni fondamentali: uno, perché questa cambia ovviamente strategicamente tutto l'asset della guerra, e due, perché comunque anche gli Stati Uniti non hanno più tutte queste risorse da dedicare all'Ucraina, no? Già gli avevamo venduto i giocattoli, perché tutta la merda che era ovviamente nei depositi, negli arsenali, gli avevamo dato a loro, perché giustamente non è che gli vai a dare l'arma di ultima generazione che a te costa miliardi di dollari, no? Ma questo ci può anche stare, no? Come tipo di discorso. Però poi dice: guarda, pure i giocattoli sono finiti, cioè nel senso cominciamo a diventare un po'... Cioè, nonostante ovviamente gli Stati Uniti hanno tentennato e non hanno dato un avallo effettivo ufficiale, ma l'hanno fatto fa al Regno Unito. Regno Unito che è la puttana degli Stati Uniti, cioè l'abbiamo detto tante volte, Vanini lo dice diciamo in maniera più garbata chiamandolo il cagnolino da borsetta degli Stati Uniti, ma per me il Regno Unito con questa scelta, questa deriva che negli ultimi 10 anni li ha portati alla separazione dall'Europa, ecco, Michela ieri mi diceva che da adesso ci vuole il visto come quello americano per entrare nel Regno Unito, e questa decisione proprio di isolarsi, di differenziarsi dal resto dell'Europa, alla fine nonostante tutto quello che gli ha comportato, nonostante questo ovviamente loro sono quelli che spingono di più per l'interventismo all'interno di quella che è la situazione russo-ucraina. Poi non sto parlando del discorso di Israele, perché magari ne parleremo in un'altra occasione fra qualche settimana, perché poi dopo esce fuori quella parte brutta di me che non vorrei che mi dovesse fare, quindi la tengo a bada. Perché ieri Walter ha postato un tweet di un tizio, adesso non ricordo come si chiama, che ovviamente è andato a Tel Aviv per vedere un po' com'era la situazione. Già solo come è atterrato l'hanno praticamente mezzo massacrato, perché ha incontrato, che ne so, il rabbino di Torino che dice: ah, voi che alza la testa, ah, voi che siete a favore di quell'altri, no? Cioè nel senso, perché per loro è un fatto di distinzione, ma questa è una questione di radicalizzazione religiosa, quella di Israele, che appartiene ai millenni, non è che appartiene a adesso. Cioè quello che noi facciamo finta di non capire è che questa popolazione è cresciuta con una radicalizzazione religiosa e con una presupponenza sul fatto di essere il popolo eletto, che li ha portati nei millenni a fare disastri dappertutto. Allora noi oggi facciamo niente niente. Comunque, poi lui è stato preso, portato lì alla dogana, l'hanno mega interrogato, l'hanno tenuto lì, insomma, e via dicendo. Poi dopo alla fine faceva, beh, cioè, guarda adesso com'è la situazione, tanto fra qualche settimana sarà tutto finito, no? Dice, gli ha detto l'agente della dogana col sorriso, ridendo, perché loro sono contenti, capito, di questa cosa. Cioè poi dopo ti raccontano, e anche loro raccontano, che esistono delle sacche di opposizione all'interno di Israele, però insomma alla fine ti danno questa cartina geografica dove la Palestina non esiste, dove è tutto Israele praticamente. Ma quindi loro ce l'hanno, è costruita sta cosa. Comunque vabbè, al di là di questa cosa, perché poi bisognerebbe parlarne di questo fatto non lo dico, perché sennò poi dovrei... Comunque, tornando un po' al discorso del discorso dell'Europa, che per me è un grande dolore, tutto sommato, perché io nell'Europa, come ho detto tantissime volte, ci ho creduto. Ho creduto veramente che ci potessero essere delle possibilità di costruire una sorta di evoluzione della politica a livello mondiale, che veramente l'Europa potesse essere una sorta di faro di civiltà, no? All'interno di quella che è il mondo. Ma purtroppo, partendo in ritardo, si arriva in ritardo, e quando ovviamente i cani, quelli più forti, quelli più potenti, iniziano a mozzicare, ti rimangono soltanto i brandelli. E all'Europa, evidentemente, per ragioni proprio di sopravvivenza, gli è toccato fare la parte dell'Inghilterra, poi, fondamentalmente. Noi ci siamo praticamente prostituiti: da una parte cerchiamo di costruire una politica di indipendenza, soprattutto nell'ambito dei dati, a quello che è ovviamente la politica americana, e dall'altra invece poi alla fine ci prostituiamo. E sono state messe delle persone nei punti giusti, tipo la nostra amica Ursula, che è completamente assoggettata a questa visione americana e occidentalista nei confronti della Russia. Perché io sono abbastanza convinto che, al di là di quello che ha fatto la Russia, che è indiscutibilmente un crimine, secondo me ci sono sempre stati margini di discussione. Ci sono sempre stati, ma giustamente l'Europa non poteva discutere su un'azione della NATO. Perché qui, ovviamente, cioè, il discorso è chiaro. Cioè, gli Stati Uniti e la NATO di conseguenza hanno creato una rivoluzione politica all'interno dell'Ucraina, che noi possiamo condividere o non condividere, però comunque ha dato spazio ovviamente a una realtà che è diversa da quella che c'era prima. Perché se prima ovviamente la politica ucraina era filo russa, diciamo così, loro hanno fatto in modo che questa cosa si invertisse completamente, con tutto quello che ovviamente poteva continuare a creare, no? Quindi, vabbè, problemi alle popolazioni russe, una richiesta d'adesione alla NATO, i porti della NATO praticamente sotto casa, la Russia che è la Russia, non è l'agnello che sta lì a farsi prendere per culo, quindi con tutti i suoi annessi e connessi, difetti e non, ovviamente reagisce. Cioè, nel senso, tu che sei a NATO, sei stato il mio nemico storico per 70 anni, mi vieni a romper cazzo fino a sotto casa, no? È chiaro che ovviamente tutto questo ha portato una reazione. Più noi ovviamente fomentavamo questa guerra e sostenevamo questa guerra, invece di farla interrompere, invece di trovare un compromesso anche a discapito di qualcosa nei confronti dell'Ucraina, abbiamo continuato a spendere miliardi di dollari, miliardi e miliardi e miliardi di dollari, facendo morire migliaia e migliaia di soldati, perché ovviamente più tu porti avanti sta guerra, più sta gente si ammazza. Noi vediamo che oggi conquistato, non è Call of Duty, lì la gente muore per davvero. E noi questa cosa l'abbiamo sostenuta, l'abbiamo alimentata, no? Poi mi viene da ridere che la prossima settimana la Lazio, che c'entra niente secondo voi, però secondo me sì, la Lazio gioca contro la Dinamo Kiev ad Amburgo, ovviamente, perché non vanno a giocare in Ucraina. E a volte mi domando, cioè, nel senso, non ci sono cose più importanti da pensare, invece di far finta che è tutto a posto, invece di far finta che l'Ucraina è ancora tutta in piedi e gagliarda e tosta e via dicendo. Cioè, ma io non è che sto contro l'Ucraina, cioè, a parte ovviamente contro i politici, no? Che poi tra l'altro c'è stato un mega rimpasto recentemente, proprio perché comunque un sacco di gente, capendo che oramai la guerra è tra virgolette finita, perché comunque l'Ucraina non può continuare a sostenere questa situazione anche con le armi a lungo raggio, giustamente un sacco di gente si è data, ha detto fu, fu, fu, fu, fu, fu, fu. E noi che stavamo a fare? Come noi eravamo il baluardo dei diritti umani, dei diritti dei popoli e della tolleranza e della diplomazia, e diplomazia dove l'abbiamo messa? Noi vediamo che all'interno dell'Europa stessa ci sono soggetti che stanno facendo un secchio grosso per cercare di trovare dei compromessi, un cessate il fuoco, e poi il cessate il fuoco da chi è che viene boicottato? Ovviamente dalle nostre stesse azioni. Quindi questo mi fa capire che questo è più che un complotto, questa è proprio un'intenzione di portare avanti questa cosa. C'è un motivo, c'è sicuramente un interesse globale superiore che noi forse magari non riusciamo manco a capire. Perché nessuno si è preoccupato di dire, ma gli europei, i cittadini europei, sono preoccupati di quello che sta succedendo? No, non gliene frega un cazzo. Distratta, passi leggeri di verde vestita, un'ombra di grazia, eterea struggente, nel caos del mondo un mistero vivente. Sei l'ultima a morire, ma non muori mai. Custode di segreti, di sogni e di guai. Nel tuo sguardo d'infinito il tempo si perde. Sei l'ultima a morire. Donna dal mantello verde. Ti seguo incantato, cinque passi distante. Le mie domande, un sussurro esitante. Perché mi segui, tieni senza voltarti. Per un bacio, una carezza, per poterti toccare. Sei l'ultima a morire, ma non muori mai. Custode di segreti, di sogni e di guai. Tuo sguardo di infinito il tempo si perde. Sei l'ultima a morire, donna dal mantello verde. Dal Colosseo e fuori, fantasma di speranza. Il mondo si sfoga nella tua eleganza. Ti chiedo un dono, un frammento d'eterno. Ma tu, severa, non hai ancora peso. Sei l'ultima a morire, ma non muori mai, oh mai. Custode di segreti, di sogni e di guai, e di guai. Nel tuo sguardo d'infinito il tempo si perde. Sei l'ultima a morire, donna dal mantello verde. Colosseo e fuori, fantasma di speranza. Il mondo si sfoca nella tua eleganza. Ti chiedo un dono, un frammento d'eterno. Ma tu, severa, non hai ancora preso. Nel tuo rifiuto una lezione nascosta. Nel mio orgoglio ferito una verità esposta. Il bacio più dolce l'hai già assaporato. Cuore lo porti, anche se l'hai scordato. Sei l'ultima a morire, ma non muori mai, muori mai. Nei ricordi sopiti, nelle attese ne vai, e ne vai. Nel verde del tuo mantello la vita si perde. Sei l'ultima a morire, ma resti per sempre verde. L'ultima a morire, questa è una canzone appunto che ho fatto recentemente sempre con Suno, che viene estratta, così come altre cose, canzoncelle che ho fatto recentemente, da una raccolta di racconti che si chiama L'albero dei racconti, scritto dal 1996 al 2000 e che non ho mai pubblicato, non ho mai revisionato in realtà, cioè non ho neanche mai riletto, cioè nel senso non mi sono mai messo lì a correggerla. E tra i vari racconti c'era questo racconto che si chiama L'ultima a morire, che è dedicato alla speranza, cioè nel senso è una metafora della speranza fondamentalmente, penso che si sia anche abbastanza capito, però ci tenevo a dire che comunque alla fine questo lavoro lo sto revisionando, ci vorranno ancora dei mesi insomma per fare questo tipo di procedura, e poi ovviamente bisognerà trovare un copywriter che gli dà poi una sistemata finale, poi lo impagineremo e lo metteremo in vendita. Perché dopo tanto tempo? Perché in realtà nei vari traslochi, nei vari cambi della mia esistenza, io ho perso tantissime cose, perso proprio oggetti fisici, cose insomma che sono andate perdute, anche altri racconti, storie, idee che avevo iniziato, poesie che avevo scritto e via dicendo. E in 30 anni di vita invece questo file è sempre rimasto con me, non so come e non so perché è passato da computer a computer, è passato da sistema operativo a sistema operativo, da hard disk a hard disk, adesso è nel cloud, quindi insomma è un po' più al sicuro da un certo punto di vista. E quindi proprio recentemente mi sono interrogato, ma se questa cosa è sopravvissuta ci sarà una ragione, no? Diamogli un merito, poi magari so che insomma magari potrebbe anche qualcuno se lo può pure comprare, no? Cioè nel senso magari può interessare. Comunque è una raccolta di racconti di vario genere, tra vari stili, varie cose che oggi a rileggere ovviamente c'è un po' di infantilità, però nella revisione, nella rimodernizzazione diciamo che sono abbastanza soddisfatto. Poi quando lo metteranno in vendita mi vergognerò come un cane, perché vabbè tutti dicono ma sei figo, sei, poi ma che è sta merda, no? Cioè, nel senso. Però la canzone L'ultima a morire, tratta appunto dal racconto dell'ultima a morire, è un po' un'antitetica rispetto a quello che è stato il tema della puntata, perché il tema della puntata, al di là di tutta questa globalizzazione complottistica e geopolitica di cui abbiamo parlato, il problema è ovviamente, come in tantissime altre situazioni, seguire anche marginalmente quello che viene chiamato il dibattito nei social, che non esiste il dibattito nei social, non è mai esistito, ma a maggior ragione non esiste oggi. E tu vedi come su tantissime altre cose la gente esprime questi giudizi affettati, ma con l'accetta proprio, cioè con proprio netti, proprio queste cose proprio assolutamente così. Così come esprimono giudizi sul transessuale o sul ragazzo di colore o su quella che ha acciaccato quello che gli aveva rubato la borsetta. La gente oramai è completamente polarizzata, e che la gente che commenta in questo modo, e quella gente che commenta in particolare, ha dei problemi a monte, no? Quindi delle frustrazioni. E la stessa cosa vale ovviamente su questa storia dei conflitti, no? C'è gente lì seduta dietro al proprio computer chiamandosi GP794,6 invece di chiamasse Simone Pizzi, come mi chiamo io nei social, perché insomma è abbastanza chiaro, no? Che alla fine comunque in qualche maniera quando esprimi un'opinione mettici almeno un minimo di tuo, no? E stanno lì, ah guerra, come la guerra, dove ammazziamo gli sti russi de merda, ah! Non rendendosi conto, perché non si possono rendere conto magari a un certo punto di vista, perché l'ultima guerra c'è stata 70 anni fa, che è una guerra appunto, e che la gente lì muore. E che perdono, e quelli che non muoiono perdono le case, perdono gli amici, perdono i parenti, perdono l'animale domestico, perdono le madri, i figli che sono andati in guerra. E questa è la cosa che la gente non sa. No, guerra, oh, tu pacifista del cazzo, comunista, radical chic. Che poi sono 10 anni che va di moda sta cosa del radical chic, non sanno manco che cazzo vuol dire, perché però l'hanno letto da qualche parte, quindi è giusto insomma mettere questa cosa del radical chic. Che a me fa sempre ridere. Io quando vedevo radical chic, ma che cazzo. Io poi de chic io non c'ho proprio niente, ragazzi. Quindi radical probabilmente, insomma. Ecco, questa è la cosa che mi fa veramente ridere, è vedere proprio sta gente, capito, seduta dietro alla propria poltrona, dietro al proprio smartphone, a scrivere queste bestialità, no? Contro quello, contro quell'altro, contro la guerra, ammazziamoli tutti, bisogna sterminarli, no? Capito? Tutte queste cose così. Però poi dopo alla fine tu gli acciacchi la coda al gatto e fanno una tragedia, no? Perché è così. E ricordando sempre ovviamente non è stata parlata di Mario Rossi o Franco Verdi o Giuseppe Garibaldi, stiamo parlando di Lillo 42/70, capito? Cioè nel senso di che cazzo ne so, Chicchetta Panterona 92, no? Queste cose così, no? E a me questa cosa mi ha sempre fatto ride, perché già siete dei poveracci, perché diciamoci la verità, siete dei poveracci, cioè avete la poraccitudine dentro di voi, e poi E poi, capito, cioè, oltre a di quello che dite, insomma, che poverini, cioè, avete delle frustrazioni incredibili, a casa vostra moglie vi mena, no? E non contate un cazzo, quando esprimete le opinioni non vi ascolta nessuno perché siete dei deficienti. Allora, giustamente, che fate? Andate sui social mascherandovi così non vi possono riconoscere, perché sennò vostra moglie vi viene a menà pure lì, a scrivere cose che altrimenti non direste mai di fronte agli altri, perché vi mancano i coglioni per essere delle vere persone, e invece che dei pezzi di merda che incitano ovviamente alla morte di altre persone. Tanto a voi alla fine che cazzo ve ne frega. Allora, intanto io non ho salutato nessuno, quindi saluto Walter, ho visto Deborah, Andrews, Christian Spaccamaniccia, Vincent Valentine, Michela, quindi insomma salutiamo tutti quanti. E Spacca, tra l'altro, scriverà la prefazione del mio libro, così come io ho scritto la prefazione del suo, però il suo è stato pubblicato. Anzi, se vi capita, andate sul sito dei Feltrinelli, non so se anche su Amazon, cercate Tubo N403 e compratelo. È comunque un romanzo che anche questo ce l'ho, è sopravvissuto alle aeree, ai computer, agli hard disk, ai tentativi cinematografici, insomma a tutto, ed è una cosa che fa parte di me, proprio è una cosa assolutamente mia. Vi ringrazio di avermi ascoltato, vi ricordo che è uscito Snap Architettura Imperfetta e che ieri è partita la nuova stagione di The Nightmare. Vi ricordo che domani mattina saremo live con Michele alle 8:30 con Disordinati Informati. Vi ricordo che questa sera ci sarà Runtime by Night con una nuova puntata di una nuova stagione di Trick e Ballack. Arrivederci e grazie, insomma. Detto questo, insomma, anche questa se la siamo portata a casa. E niente, ci vediamo, ci ascoltiamo, anzi, domani mattina, e poi venerdì prossimo, e poi, come dicono quelli a Parigi, salutame a Soreta. Yeah,